voce femminile di Siouxsie, accompagnata dai suoi Banshees con Cities in Dust, ad un'altra voce femminile, quella di Chrissy Hynde e i suoi Pretenders con Talk of the Town. Saluto a Laura da Genova con la sua SMS, Angie da Ravenna e al prossimo Trisdassi, che parte così con Police. A seguire gli Yes e a chiudere i Bad English. We'll be right back. I'm See You Smile, Bad English con John Waite alla voce in questo progetto di ottimi musicisti, era un super gruppo durato purtroppo pochissimi album. Piano piano ci avviciniamo al termine del nostro appuntamento, ancora 40 minuti e poi a posto siamo, arriverà Claudia per voi dalle ore 12 sino alle ore 14. Down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Gonna get to do. Another one bites the dust. Teno da Cormano, nonché anche Christian, che mi chiedono chi ha vinto il gioco Viking. Il gioco Viking l'ha vinto Alessandro. E tra poco invece regaleremo biglietti per i concerti. Tempo di salutare, di dare un in bocca al lupo, e poi sarai tu a dire che il lupo crepi all'esame che deve sostenere il nostro amico Steve da Carpi il prossimo giovedì. Un in bocca al lupo. Da parte di Eli Rock, un saluto a Max Minti, Rock in Progress, Franci Giulia, Split, Bonnie Dora, Spitti e tutta la Rock Family. www.rockfamily.it